3, 2, 1. Puntata numero 15 dell'incredulo, l'incredulo che sono io, che a me non mi fregano, ti arrivano tutti questi vestiti strani e ti raccontano, vedi perché gli spiriti, le malattie, lo sciamano, a me non mi fregano perché io come cuscino per dormire c'ho l'origine della specie di Darwin. Anche se parlando con qualche creazionista hanno le loro ragioni e effettivamente un pochino hanno minato certe mie certezze. Ma allora, per rinfrancarmi, mi faccio uno shaker di Galileo e di Newton, altri due occultisti, e in qualche modo vado avanti nel credere che tutto quello che sta scritto sui libri spesso pubblicati con il logo delle case farmaceutiche sia vero. Pertanto queste medicine alternative a me non mi fanno, perché non ci credo, perché effettivamente non funzionano. Tuttavia non dimentichiamoci del fatto che spesso ragioniamo con logiche fallaci, e quelle che erano grandi verità di un tempo oggi sono considerate barzellette. Per esempio, ai diabetici negli anni 50 veniva suggerito di mangiare molto riso, il che era quello che li portava alla morte. Poi qualcuno gli venne in mente di dire, ma sarà il caso di cambiare, e oggi il riso è la prima cosa o tra le prime cose che viene tolta dalla dieta dei diabetici. Pertanto tanto vale ascoltare anche altre campane, fare tesoro di altre esperienze differenti da quelle dell'ospedale, della USL e del ticket. E allora, per guidarci attraverso questi modi differenti di vedere la malattia, di vedere la medicina, di vedere se stessi, abbiamo necessità di una guida, che sia meno incredula di me e che sia molto più seria in quello che fa di me e in quello che studia, e in particolare che se lo ricordi, perché io non mi ricordo una cippa appena ho girato la pagina del libro. E la nostra esperta, l'esperta di Radio Big World, è Elisa! Buongiorno, buongiorno Giorgio, come stai? Ma Elisa, mi difendo, però effettivamente sto continuando con lo zenzero, lo sto utilizzando non solo in tisana ma anche nei piatti. Per esempio, sai Elisa cosa mi hai fatto scoprire? Il sapore speciale del riso cantonese al ristorante cinese è che la frittata è stata fatta con lo zenzero. Pensa dove sono arrivato a mettermelo. Addirittura, non lo sapevo che era fatto con lo zenzero. Dai, sempre nuove notizie. Ti dà quel sapore inconfondibile di ristorante cinese. E di cinese che facciamo? Parliamo oggi, parlando, che ne so, delle ultime scoperte scientifiche pubblicate sul New England Medical Journal. Allora loro ci avranno il Guangdong Medical Journal. Insomma, di che cosa scientificamente, scientificissimo ci parli? Siamo vicini alla Cina, ma siamo nell'Himalaya. Oggi parliamo dei fiori malayani. Ah, quelli che coltiva il Dalai Lama sul balcone. I fiori himalayani. Ma che storia è? L'Himalaya è altissimo, ma che ci fanno i fiori? Ci fanno i fiori, ci crescono dei fiori un po' speciali. Un po' speciali perché questo set di fiori di cui vi parlerò oggi, che sono i fiori malayani and archers, sono legati ai nostri amici chakra, con cui ti ho ampiamente rotto gli zibidei nelle scorse puntate. L'Himalaya, i chakra, il Dalai Lama e pure i fiori. Ma anche il marocchino qui all'angolo mi ha detto, oh, i fiori io ce li ho buoni. Ma che roba è? Come ci si droga con questi fiori? Ci si droga per bocca come negli altri fiori, quindi non si fumano nemmeno questi purtroppo, però insomma, se vuoi provare a fumarli andare sull'Himalaya a coglierli, non te lo so dire però che effetti danno, e se insomma se già arrivare sull'Himalaya è un bello scoglio, se arrivi e riesci a fumare e tornare giù, secondo me insomma puoi ritenerti di aver vinto il Guinness dei primati e non essere arrestato dalle autorità cinesi e rischiare di prendersi un bel ergastolo. Esatto. Allora, vi racconto un pochino. Questi fiori sono stati individuati da un certo signor Tanmaya nel 1990. Tanmaya è australiano, perché tutto, ragazzi, gira, mi dispiace, ma il futuro è nell'Australia. Ma pensate, io pensavo che si bevessero birra a fiumi e basta, incredibile, correre dietro ai canguri. E li ha scoperti durante una sua viaggio, diciamo, per di meditativo, di permanenza per alcuni mesi nell'Himalaya. C'è questa storia un po' magica e mistica che come accomuna il dottor Bach e Ian White, che i fiori hanno iniziato a parlargli. E parlandogli gli hanno ben spiegato a che cosa servissero e a correggere quindi quello che c'è di sbagliato in noi, quindi le nostre parti emotive più sbagliate, e migliorare alcuni lati del carattere della nostra vita. Questi fiori sono un po' diversi dagli altri, ora lui ne ha fatti diversi di set, però io mi concentro su questi perché sono quelli, diciamo, un pochino più comuni e più facili da comprendere. Si assumono puri e non quindi vanno diluiti come gli altri fiori, quindi le boccette pronte all'uso che vi vengono vendute del chakra set, voi ve lo potete tranquillamente sparare in bocca senza bisogno di diluirlo. Per diluirlo intendi in acqua, tipo il classico bicchiere, sì, d'acqua? Nel senso che le stock bottle che vi danno sia dei fiori di Bach che australiani andrebbero estratte delle goccioline, messe in una contagocce da 30 ml e poi prendersi invece la diluizione acqua e goccioline lì dentro. Invece i fiori himalayani si prendono direttamente dalla stock bottle. Quindi se comprate il set, se vi appassionerete a questi fiori, potete tranquillamente, non avete bisogno di altro, aprite la boccettina e ve ne prendete. Si possono comunque anche mischiare con altri fiori, però secondo me, lavorando sui chakra, andrebbero secondo me presi in solitaria. Quindi se volete farvi questo viaggio, dovete prenderne due gocce per 5 volte al giorno e partire dal primo chakra, quindi come si parte dai chakra più bassi per riequilibrio di chakra, anche da questi si parte dai chakra più bassi e ci si alza. Il primo fiore di cui vi parlo si chiama radice della terra in italiano, down to earth in inglese. E a che cosa serve questo fiorellino? A crescere l'energia sessuale, vitale, l'intimità con la terra. Aiuta quando vi è la libido bassa, potenzia l'aspetto sessuale e la capacità di vivere appieno le cose concrete. Riduce l'ansia per le cose materiali, le paure sottili o nascoste, l'affaticamento psicofisico e la mancanza di stimoli. Da evitare se gli stimoli sessuali sono troppo alti, quindi occhio, insomma. Se avete bisogno di riavvivarvi un po' bene, se siete troppo vivi evitate, perché sennò vi trovano a fare i guardoni in mezzo al parchetto. Un mio amico sostiene che uno dei problemi di noi toscani è proprio la lussuria, per cui probabilmente lui sposerebbe questo primo fiore. Potrebbe sposare. Però Elisa, aspetta un attimo, queste definizioni che ci leggi sembrano le definizioni, le pubblicità di un medicinale o una di quelle pubblicità moderne che ci invitano a comprare roba che in realtà non ci serve. Questo che ci hai detto, secondo te funziona? Io sono arrivata al quarto fiore, quindi ho finito il quarto chakra e ti devo dire che quando ho iniziato il primo magari mi sentivo un pochino più centrata, quindi lavora quindi sul primo chakra, quindi su tutte le cose che abbiamo detto sul primo chakra, sull'essere concreti, radicati a terra, e soprattutto aiuta quelle paure primordiali che sono quelle di sostentamento, quindi la paura di non farcela, di non avere da mangiare, di non avere forza, Ricordatevi che comunque anche il primo chakra è legato tanto all'attività sessuale per la procreazione. Io devo dire che m'ha fatto, però io magari sono un pochino più predisposta a queste cose e mi ha aiutato a concentrarmi tanto su quello che dovevo fare in quel momento, quindi a non divagare un pochino e essere un pochino troppo sulle nuvole. Va bene, quindi Elisa, questo tipo di effetti li hai sperimentati sulla tua persona. D'altra parte, le cose di cui parli, ce l'hai spiegato più di una volta, sono più o meno tutte sperimentate su di te, sì. Pertanto è tua esperienza anche questo tipo di, non lo so, di bugiardini o specie di bugiardino un po' spirituale. Allora andiamo avanti, parlaci dell'altro, del secondo fiore. Il secondo fiore, in italiano si chiama sentirsi bene, quindi well-being, e aiuta a centrarsi, favorisce il rapporto col potere personale, stimola la creatività e coordina le emozioni. Questo chakra è una riserva di energia ed il centro per la trasformazione dell'energia di base, quindi aiuta a dissolvere la rabbia accumulata, perché sappiamo che la rabbia sta nel fegato e il fegato è nel basso ventre, i traumi della nascita, la paura della morte e l'instabilità emotiva. E ti devo dire che quando ho preso questo chakra io mi sentivo una bomba, cioè questo fiore, scusate, mi sentivo una bomba, nel senso che avrei potuto spaccare il mondo, perché ti fa proprio sentire tutta l'energia che te hai dentro, perché come l'energia, no, passa dalla terra, dal primo chakra arriva nel secondo, il secondo è fatto nella pancia e nella pancia noi ci accumuliamo tutta la nostra forza e da lì poi si propaga in tutti gli altri chakra. È tostino. Elisa, i buddisti dicono che uno dei problemi degli esseri umani è il fatto che cercano il piacere quando hanno il piacere o è troppo breve o cercano in qualche modo di prolungarne l'effetto. Ossia, il ragazzetto che se ne va al rave party e si prende l'MD più o meno dice: ah, perché lo fai? Perché mi sento una bomba. Tu con questo fiore ti sei sentita una bomba? Ora no, come ragazzetta al rave, magari c'avevi la cresta, quella come a Londra negli anni 80 e facevano le bombolette di vernice sui capelli, è incredibile, ma nel senso, se tu decidessi di continuare a sentirti una bomba, non è che continui a prendere il numero 2 come se fosse una droga? Tutto sta nel buon senso, nel senso dipende da te. Se stai in un momento in cui hai bisogno di veramente di far sì che l'energia tua si concretizzi in qualcosa, quindi anche momenti di stanchezza, di cambio di stagione, i momenti in cui uno è un pochino più fiacco, questo ti fa sì che l'energia che c'hai venga usata in maniera corretta. Passami il termine, un sopradin fatto in fiore. D'accordo, interessante. E allora qui la faccenda si fa particolarmente... parlaci del terzo fiore. Il terzo si chiama... Mi piacciono questi fiori, interessanti. Sono fantastici. Forza, strength, e quindi lavora sul terzo chakra. Il terzo chakra sappiamo che è la parte del nostro voglia di apparire al mondo, i nostri desideri, i nostri progetti. Quindi cosa farà? Sviluppa l'individualità, la creatività, l'onestà, l'autoconsiderazione, perché alza l'autostima, la nostra espressione nel mondo materiale. Amore, identificazione e capacità di manifestare se stessi, aiuta a superare la mancanza di direttive, di motivazione e di speranza nella vita, elimina la depressione e l'oppressione, libera dagli schemi mentali che costringono e condizionano. Quindi è quello che, se sei in un momento in cui che farò della mia vita, non mi sento in grado di, non sono capace di, ti fa capire qual è la strada giusta e ti fa capire che te sei bello in ogni tuo aspetto, pregi, difetti, aspettative dalla vita, progetti. Quindi ognuno di noi nel suo è perfetto. guarda, in una società come la nostra, che è dominata da una sostanza, da varie sostanze, ma una in particolare, cioè la cocaina, che ha come effetto collaterale quello di rendere disoneste le persone, tanto che c'è un mio amico che sostiene che i problemi della nostra società in senso lato, quindi le banche, i bailout, Occupy Wall Street, dipendano proprio dal fatto che gli operatori in questi settori consumino quella sostanza che li rende di fatto avidi e disonesti. Se questo fiore riporta l'onestà, sarebbe bello fare quello che la CIA chiese a Hoffman, cioè la bomba all'LSD, e fare un bombone con questa roba, spruzzarla sul paese, e hai visto mai che ci risolleviamo? Ce ne sarebbero tanti di fiori da mettere nel condotto dell'acqua, sai? E berli così, oppure anche solo lavarsi e togliere tante di quelle schifezze di condizionamenti che ci portiamo dietro. Quindi suggeriresti di sostituire tutti quei sacchi di sali e di robaccia che buttano negli acquedotti con, per esempio, questi fiori, che così si beve l'acqua, si ama a mille, ma sì, fantastico, è il sogno di molti hippie degli anni 60. Esatto. Allora, che cosa ci buttiamo d'altro nell'acquedotto? Saliamo e arriviamo al chakra del cuore, che sai che è quello che unisce i chakra bassi con quelli più alti, e si chiama ecstasy, quindi sia in italiano che in inglese. Favorisce l'amore, la compassione, la sincerità, il senso di verità, la profondità dei sentimenti, il senso di espansione e l'amore universale, il servizio e la generosità. Stimola l'empatia con tutti gli esseri viventi, riduce la rigidità, le contrazioni, l'amarezza, la gelosia, la mancanza d'affetto, l'ipercriticismo, la sfiducia e l'irritabilità. Io sono fermo a questo, ora devo iniziare quello successivo. Dai, incredibile! E ti devo dire che effettivamente il mondo mi fa un po' meno schifo in questo momento, non so se sono stati fiori o se sono io un pochino più positiva, però sto apprezzando di più l'umanità e il mondo, ed io di solito non l'apprezzo molto. Beh, questo fiore sembra un fiore Woodstock, alla fine migliaia di americani si riversarono in quella piana di fango proprio per cercare quello che questa boccetta, questo fiore promette di fare. È incredibile, è tutto legale, sì. Saliamo al chakra della gola, che è quello che abbiamo detto ci fa cantare sotto la doccia, che si chiama autenticità, authenticity, quindi la sviluppa... Sono australiani, sono in inglese. Sì, la capacità di esprimersi, la comunicazione verbale, il senso estetico, il piacere e la bellezza, le esperienze raffinate, la capacità di chiedere, di cercare, di cantare, l'immaginazione, il pensiero collettivo, la convinzione, l'autorità. Riduce la timidezza, la paura di dire la propria verità, la difficoltà di comunicare, l'affaticamento, la tensione, l'apprensione, la claustrofobia, la mancanza di convinzione, gli spaventi, la rigidità e la paura di cambiare. Ora io dovrei iniziare a prendere questo chakra, quindi se la prossima volta dirò cose che di solito non dico, sai che è dovuto a questo fiore. Ah, interessante, quindi permette di esprimere i propri sentimenti e pensieri più profondi senza grosse paure sociali, tra gli altri effetti. Esatto. Quello che Roberto Benigni sosteneva facesse il Chianti, tant'è che lui è diventato famoso, a parte ora è pop, ma quando è diventato famoso lui saliva su un palco con un fiasco di Chianti buono, quello se lo beveva tutto, e a un certo momento partiva improvvisando e lì ha tirato fuori forse le sue più grandi genialità. Interessante, molto interessante. Gli australiani il Chianti non ce l'hanno, quindi sono costretti a fare con i surrogati. E allora più su. Terzo occhio, quindi chiarezza, clarity, aumenta la chiarezza, la consapevolezza, l'acume, la percezione, l'intuizione, la perspicacia, la spiritualità, la chiaroveggenza, la meditazione, la concentrazione, il potere personale, l'abilità di vedere nel cuore delle cose e di capire l'estasi, il senso dell'uno cosmico, fornisce la chiarezza e direzione, la capacità di cogliere i segni, aiuta i mal di testa, riduce l'eccesso di energia sessuale, quindi se uno ha il primo troppo carico, si piglia quello del sesto e è a posto. Come un clarinetto. Esatto. Aiuta a superare l'isolamento, l'alienazione e la mancanza di senso nella vita. Ma quindi lavora sul terzo occhio, quello che noi sappiamo che ci aiuta a vedere oltre. Beh, racconta un qualche storico greco di cui ignoro l'identità al momento, che per esempio il popolo degli sciti, che viveva nelle steppe euroasiatiche, loro non si lavavano con acqua ma facevano dei bagni tipo saune, quelle saune siberiane, e al posto della betulla o che ne so ci buttavano cannabis in buona sostanza, e grazie a questo tipo di intossicazione, mettiamola così, riuscivano a parlare con gli dèi. Va bene, lo potresti provare. Gli australiani semplicemente hanno trovato la soluzione più semplice con questi fiori. Allora, quanti ne mancano? Ne manca uno? Manca quello? Uno più c'è il Jolly. Che però uno più il Jolly. Vai, allora, giochiamo l'uno e poi vediamo questo Jolly. Hai visto mai che si scopre qualcosa che magari si rivende in piazza? Allora, settimo chakra, quindi corona sopra la testa, si chiama volo o flight, quindi sviluppa l'unicità, la meditazione, la preghiera, aiuta ad andare oltre la forma verso il sé più profondo, all'unione di corpo, mente e spirito, rimedia al senso di separazione, di isolamento, ai vuoti di significato, ai sentimenti di insignificanza. È un pochino spirituale, come è l'ultimo chakra di cui sappiamo un po' tutti, no? Che è un po' è quello più mistico, diciamo. Quindi oggi che si cerca questo tipo di soluzioni, per esempio in rete con i social network, che ormai ha messo persino dai loro padroni, in buona sostanza lavorano sulla produzione di dopamina del nostro cervello, questo tipo di fiore permetterebbe di superare questo tipo di dipendenza, perché ormai è una dipendenza, qui sono tutti con sto telefonino in mano. Esatto, e tra l'altro ti unisce al tuo io più profondo, quindi al nostro scopo della vita, alla nostra spiritualità. Fantastico. E il jolly di cui dicevi? Allora, esiste l'ultimo fiore, si chiama gratitudine, gratefulness, che sai che è una parola che a me piace tanto e che di gratitudine ve ne ho parlato nella scorsa edizione. E favorisce la fratellanza universale, la comunione cosmica, il senso del meraviglioso, la fiducia. Questo fiorellino qua in realtà serve per catalizzare tutte le altre essenze, quindi se avete bisogno di potenziarne una, ve ne prendete tutte e due insieme, quindi gli dà, diciamo, forza a tutti gli altri fiorellini. Il mio amico sostiene che in Toscana siamo malati di lussuria, io però piuttosto direi che siamo malati quantomeno anche di invidia, e l'invidia è quella che ci rende divisi e separati, le contrade e il campanilismo e il palio e il saracino e la giostra. Questo tipo di fiore permetterebbe di superare le nostre divisioni storiche, mettiamola così. Magari poi sì, uno di Arezzo mi sta simpatico. Sì, dissipa anche l'egoismo in tutto ciò, quindi sì. Se si fosse sciolto nell'Arno, quindi non ci sarebbe stata la guerra tra Firenze e Pisa, e oggi la storia chissà sarebbe diversa, magari Pisa si era fatta un impero oltremare e il Brasile ora parlavano boiad, eh? Può darsi, chi lo sa. Elisa, una domanda, hai parlato di un set, quindi queste sì, boccettine vengono in qualche modo vendute insieme, dove si trova questo set? Perché se vado all'erborista a dire no, mi dai fiori malaiani perché c'ho da unirmi con l'uno cosmico, chiama il sindaco, mi fanno il TSO, arriva l'ambulanza e sono in ospedale, e Dio piace. In Italia il distributore è la Natur, che distribuisce anche altri fiori, quindi li potete ordinare direttamente online dal sito della Natur. Mi arriva questo boxettino a casa, bellissima, e potete iniziare a prenderli. Io consiglio di fare il percorso che sto facendo io, quindi partire dal primo per arrivare quindi al settimo. Se volete usare il catalizzatore lo aggiungete, e si prendono per 15-20 giorni e poi si fa una decina di giorni di pausa fra un fiore e l'altro. Ok, e visto che voi fiorentini guardate spesso al portafoglio, e noi di provincia figurati, quanto costa un set di questo tipo? Ora non te lo so dire, perché noi sì, però ti posso dire forse intorno ai 150 euro, perché noi in naturopati ci abbiamo il prezzo speciale, quindi non te lo so dire al pubblico quanto viene. La mafia dei naturopati. Ora, se voi volete scrivere, me li ordino tutti io. Il salotto buono della massoneria naturopata fiorentina, pensate, guarda quante cose si scoprono. Arlecchino si confessò burlando. Una ultima domanda, Elisa, sai, io ho visto mai, cioè questi australiani che vanno in giro, trovano questi fiori, ci fanno i soldi, ma magari io in giro i fiori li vado pure anche a cercare, hai visto mai che qui nel bosco o nell'orto trovo il fiore della svolta? Ma come hanno fatto questa gente, Baccio, questo signore che è stato sull'Himalaya a scoprire, quell'altro che fa i fiori australiani, a scoprire il potere di questi fiori? Non so se da qualche parte te l'avevo raccontato, però Bach gli ultimi 19 fiori li ha scoperti velocissimamente, e li ha scoperti perché in quel momento soffriva esattamente dello stesso malessere emotivo di cui i fiori andavano ad equilibrare. Io ti posso dire è un po' fattore C, nel senso che secondo me li scoprono, ora sono tutte persone molto più illuminate di me e di te, attraverso la meditazione, e poi li provano, quindi li provano. E tieni conto che ora sui fiori malaiani non so se ci sono degli aggiornamenti, però io a White ogni anno dà degli aggiornamenti, perché magari provando i fiori anche un po' così su sintomi nuovi che gli vengono proposti, riesce a capire che i fiori funzionano anche per quello. Diciamo, all'inizio è, secondo la leggenda, è il fiore che durante la raccolta e la meditazione gli dice: guarda, io servo per darti autostima, io servo per far sì che tu non odi più il mondo, io servo per cancellare tutti i condizionamenti di questo mondo. Poi li proveranno, perché come nelle medicine li sperimentano prima fra di loro, guardano se effettivamente funziona. Tieni conto, i fiori australiani prima di metterli in commercio passano 2 o 3 anni di sperimentazione, perché vogliono vedere se effettivamente funzionano a quello che loro si sono prefissi. Pensate, un po' cabala, un po' alchimia. D'altra parte, uno sciamano che ho avuto modo di intervistare, lui sosteneva che per esempio questo tipo di effetto, cioè le piante che parlano a colui che ricerca, lui lo aveva sperimentato direttamente con i funghi che crescono qui da noi nei prati, quelli che contengono psilocibina. Per cui mi quadra molto, insomma, questa storia, cioè che per via meditativa e per via mistica o spirituale, in qualche modo, questo tipo di conoscenze siano arrivate a queste persone e oggi a noi. Siamo andati lunghissimi oggi, ma l'argomento era di particolare interesse. Abbiamo di fronte a noi, con pochi soldi, l'opportunità di sperimentare gli effetti positivi di alcune sostanze che oggi si vendono sotto banco e che in alcuni casi effetti positivi non hanno. Quindi ringraziamo Elisa per averci edotto su questo tipo di bizzarrie, passatemi il termine. Grazie a te Giorgio, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Io spero che questi fiori vi piacciono e vi siano utili. Naturalmente poi piano piano che andrò avanti nel percorso vi racconterò qualche aneddoto se mi succede qualcosa di strano. Gli ippi erano sballati, ma non avevano tutti torti. Flower Power!